Affanculo, come nell'altra registrazione. Benvenuti, episodio numero 137. 137, oh, l'avevo appena detto. Buon anno, buon Natale e quel che l'è. Con me ci sono Jacopo, Andrea e Angela. Ciao. Ciao. Ah, vedi, salutano, se sentono me che parlo. E stasera parliamo di un film di Natale, che non è un film vero e proprio di Natale, nel senso che è il solito film Disney, ma per una volta, no, ma è non ha niente di nataloso, natalico, ed è Encanto, film uscito a novembre, fine novembre, nei cinema e a Natale su Disney Plus. È il 60esimo classico Disney, ed è il secondo anno, credo, che escono due cartoni Disney nello stesso anno. Che devo dire? Allora, lo potete trovare ancora su Disney Plus, ovviamente. Il film è appunto uscito al cinema e ha fatto un bel po' di soldi, in realtà, perché il film, cioè il cartone, è costato 150 milioni e al cinema in un mese ha fatto tipo più di 200 milioni. 216 milioni di dollari, che non è male, visto che poi alla fine comunque dopo un mese loro l'hanno reso tra virgolette gratis, nel senso comunque compreso nel loro abbonamento. Il film è ambientato in Colombia e parla praticamente di colombiani che fuggono da un villaggio, e da un conflitto armato, e durante la fuga il marito di come si chiama, Alma Madrigal, muore, e per salvare in parte la sua famiglia, ma anche chi fuggiva con lui. E questo sacrificio crea un miracolo, che è una candela magica che praticamente benedice la famiglia Madrigal, e gli permette di avere poteri eccezionali a partire da una casa magica, tipo la Bella e la Bestia. E no, non è la Bella e la Bestia. Sì, la Bella e la Bestia. E da questo punto si sposta la narrazione di qualche anno, che non so quanti, ma saranno, non so quanti anni sono passati da questo, e in cui la famiglia Madrigal si è espansa, ci sono nuovi membri della famiglia con diversi poteri, ognuno ha il suo potere, riceve questo dono dopo prima comunione. Sì, tipo, esatto, dopo essere cresciuto un po', il dono gli dà una, diciamo che questa candela gli dà un potere a ciascuno di loro, un talento, e gli dà una camera super fica in cui adatta al carattere di questo. Detto questo, la famiglia Madrigal usa questi doni poi per rendere prospero questo villaggio che si è creato all'interno di una radura protetta in cui nessuno può venirgli a rompere il cazzo. E la protagonista... Sono in quarantena. La protagonista di questo film è Mirabel Madrigal, che è l'unica ragazzina che non ha avuto alcun potere durante questa iniziazione. Diciamo che la narrazione si svolge sul fatto che la ragazzina vede crepe nella casa, quindi vede che qualcosa sta cambiando, e da qui parte, diciamo, la narrazione di questo film. Questa puntata conterrà spoiler, perché io devo assolutamente dire qualcosa sul finale. Quindi, se non avete visto Encanto e vi interessa, andatelo a vedere. E non vi aspettate il twistone finale, però ne parliamo, quindi cazzi vostri se state ascoltando. E basta, e in realtà non ho nient'altro da dire, cioè ho un sacco di cose da dire, ma come al solito preferisco che poi parliate voi di questo. E l'unica cosa che voglio dire subito è che il film ha delle canzoni che mi sono piaciute molto. Punto. Prego. Vai, Andrea. Ah, oddio. Chi è? Ma non so. Vabbè, è piaciuto intanto, ok. Carino, l'ho trovato carino. Non lo so, non è niente di eccezionale, di trama, non mi ha coinvolto tantissimo, diciamo. Però visivamente e musicalmente sono... Cioè, non posso fare io il Salla, so, cioè... Per me. In che senso? Devo farlo io il Salla? Vai. A me non è piaciuto. Non lo so, non è per fare il contrario, cioè il Salla, ma... Cioè, a me le canzoni non mi hanno detto nulla e la storia mi è sembrata un po'... Ah sì, sfruttiamo la base di Coco, che è il mio amore, sarà per sempre il mio amore, per rifare qualcosa di simile, cioè qualcosa di basato su una cultura, cioè, sudamericana, centroamericana. Non lo so, cioè non mi ha lasciato nulla, anche il significato finale, non è niente di nuovo. Cioè non è un film brutto, cioè anche visivamente... Non è incredibile, ma tutti i personaggi e le loro, diciamo, vabbè, qui forse non posso dire niente. Cioè, è già attivo lo spoiler oppure devo aspettare? Sì, spoiler, dritto, via. Spoiler mode attivato, ok. Cioè, tipo, cosa c'è dietro a Isabella, come si chiama la sorella, quella gnocca. Sì, quella gnocca strafiga, eccetera, oppure Luisa, così. Non è sto, dici, cazzo colpo di scena, oppure non c'è niente di più, nel senso non mi ha lasciato niente sto film, cioè lo potevo vedere come non lo potevo vedere, non mi ha detto nulla, e ci sono un paio di cosette carine, ma non lo so, cioè... Allora, a me è piaciuto abbastanza, non è la storia quella che ti ricorderai per sempre, cioè per me tipo è Up, è un cartone che la storia per me è stata veramente molto commovente, molto bella, questo non è così. È Soul. Soul è un'altra roba che emotivamente ti uccide. Esatto. E questo no, è un cartone piacevole, è un cartone che se sei un bambino vai al cinema con i tuoi genitori all'Immacolata a guardarti, esatto, ed esci contento di aver visto una roba colorata con una musichetta carina. Sì, con appunto, la storia non è niente di eccezionale, le canzoni mi sono piaciute abbastanza, le ho trovate abbastanza carine, molto molto da musical. Infatti la prima a me mi ricordava molto una canzone di West Side Story, l'ho trovata proprio molto molto da musical. A me ha ricordato moltissimo Oceania, forse più per i disegni e per i colori che non Coco. No, sì, certo, no, dicevo come ispirazione, non come... Non so, no, io non ci vedo grosse attinenze con Coco. Ma Coco, cioè alla fine era... Good anche. Sempre era una diciamo una storia di una famiglia traumatizzata da questo evento, insomma, che ha un po' segnato, no, la matriarca. Sì, però è stato sviluppato in modo completamente diverso, cioè è stato portato su tutto altro tema, con tutti altri colori. Sì, sì, c'è un mio amico che è appassionato di Cent'anni di solitudine, mi pare che si chiama il libro. Cioè è super, diciamo, fan della come si chiama, il surreale, no, come si chiama, oddio, il realismo magico, come cazzo si chiama, non ho idea di cosa tu stia parlando. C'è questa cosa, questo racconto che è praticamente un po' non molto come si dice, non molto affidabile, no, cioè sai quando tipo c'è uno che racconta una storia e la imbellisce e ci mette dentro magia e cose così, ma sono solo metafore di quello che sta succedendo davvero, no? Cioè, tipo in... oddio, come si chiama quel film? Big Fish, tipo? Cioè, che uno che si mette a raccontare e c'è questo tipo di uno che racconta la storia di questa famiglia mi sa, tipo in un tempo abbastanza lungo, credo, tipo addirittura forse un secolo, non lo so. Di questa famiglia della Colombia, appunto, come sto film, ed è molto così, cioè ogni personaggio alla fine come potere c'è una cosa che lo riguarda, c'è quella, capito, grossa che è forte, quella figa che non so, fa i fiori, è figa, cioè, è figa. Quella figa che è figa, c'è ovviamente il bambino di colore, quello più scuro, che parla con gli animali, perché giustamente questo come, pensavo che fosse una cosa alla salla da dire, visto che in esatto, questa puntata sono salvo, non ha senso in realtà questa cosa. Lui è rimasto un po' deluso sto collega mio. Io non c'avevo aspettative, cioè sono andato a vedere questo film senza aspettative e non ho detto nulla, però cioè, anche se è vero che dove va con questa storia iniziale è diverso, è comunque cioè una storia sul trovare il tuo posto all'interno della famiglia, trovare, andare un po' contro questa famiglia, questa, soprattutto questa matriarca stronza, che alla fine un po' si redime, ma comunque ha un po' causato questa rottura, no? Questa cosa che, questo cane che si morde la coda. Quindi boh, per quello dicevo di Coco, diciamo. No, boh, non è, cioè, non è sicuramente il cartone che ti rimarrà nel cuore e che ti vorrai rivedere probabilmente fra qualche anno. Non è neanche brutto, cioè passi un'ora e mezza piacevole alla fine, secondo me. Le canzoni sono carine, le riascolti anche volentieri, e boh, cioè, non gli ho trovato grossissimi difetti. Allora, a me è piaciuto molto, mi è piaciuta molto l'idea. E l'idea è questa, nel senso, il film ovviamente non parla di poteri e crepe nel muro, e l'idea è che loro hanno una famiglia che è una famiglia più importante delle altre in questo villaggio e deve essere, secondo l'idea della matriarca, perfetta. E a me piace molto come idea, anche per farlo vedere a un bambino, nel senso, il mondo quello che ti dice è che tu devi essere perfetto. La verità ovviamente è che nessuno di loro è perfetto, anche se tutti loro hanno un potere che li rende in qualche modo speciali. E il tema è anche più complesso, nel senso che poi la protagonista non ha alcun potere, il che lo rende ancora più diversa. E secondo me è una cosa interessante, anche se la solita roba sulla fiducia in sé, su cercare noi stessi e le solite cazzate, è una bella idea. E è comunque sempre un buon tema da far vedere a una famiglia e da far vedere anche in generale come morale. Mi sta sul cazzo tantissimo il finale, porca di quella puttana. Fa schifo. No, non è vero. Cioè, allora, perché? Perché appunto ho detto, fino a qua è molto interessante. Ed è molto interessante come tema, come viene affrontato, eccetera, eccetera. Lei non ha poteri. Lei vede delle crepe nella famiglia, di fatto, e queste crepe sono date dal fatto che appunto anche chi ha dei poteri non ce la fa, perché ha i suoi difetti, ha i suoi problemi, eccetera, eccetera, e non può sempre coprirli e non può sempre far finta che non esistano. Ed sì, è una cosa... Io non l'ho vista così questa. No, in realtà, secondo me c'è anche il punto che in realtà quello che a tutti appare come un dono, chi ce l'ha non è detto che lo viva, esatto, così bene. Esatto, cioè loro hanno una parte, una loro faccia che è un problema. Cioè, per esempio, quella che è super forte nella sua testa, però ha sempre paura di non farcela, di prendersi troppo peso e di pensare, questa volta che tiro su una mucca, magari sento un minimo di fatica, che è quella che poi la rende inutile. Cioè, di fatto è quello il punto. Anche quella dei fiori, che in realtà non fa nulla, lei, cioè, sa che il suo potere è essere carina e quindi deve fare un buon matrimonio. Esatto. Però è una cosa molto interessante, perché in realtà tu vai a vedere quelli che sono i loro difetti, cioè cioè la loro vera personalità, è come loro considerano se stessi, che non è come gli altri li considerano. Alla fine tutti loro perdono i poteri. Ed è anche questa una cosa bella, nel senso che alla fine loro, nel finale, si mettono insieme, si rimboccano le maniche e ricostruiscono la casa senza poteri, con l'aiuto di tutto il villaggio. Ora, perché cazzo gli dai i poteri alla fine? Sarebbe stato figo se loro dopo rimane la famiglia Madrigal, ma la famiglia Madrigal è speciale, ma non perché ha i poteri, è speciale perché ha costruito una comunità. quello No, avrebbe perché i reso. poteri non esistono letteralmente, i Esatto. poteri sono qualcosa che è presente Esatto. solamente in funzione di quello che il personaggio sente. Quindi se il personaggio proietta verso fuori questa forza, allora riesce a sollevare gli E assi, cioè. questo secondo me avrebbe reso il film migliore, invece no, loro hanno ridato a tutti gli stessi poteri e Ma più ne ha dato uno perché? alla Perché i protagonista. personaggi alla fine hanno riottenuto la loro fiducia, Ma il capisci loro che benessere, sì, diciamo. ma è un messaggio sbagliato da dare a una persona, perché alla No, il fine messaggio è. tu gli hai spiegato che i poteri non sono importanti, nel senso che non ti definiscono, sei tu stesso che ti definisci. Esatto, quindi anche se tu hai il tuo potere, non è il tuo potere a definirti. Che tu ce l'abbia o meno, non è questo che ti definisce. Lo Questo, so, se te però lo danno, tu devi vederlo come un dono, ma non brava, come un peso. ma una persona normale, dopo che ha visto questo, dice: vabbè, però lei ha i poteri, quindi sti cazzi. Secondo me è l'approccio sbagliato. Sarebbe stato molto più interessante se alla fine nessuno ha i poteri. Perché? Perché Ma il così. potere è una parte di loro, è come dire. Devi rinunciare a qualcosa di te stesso per sentirti bene, Sì, allora. ma per mandare il tuo messaggio è sbagliato. Perché il tuo messaggio finale arriva con sti cazzi, anche se lui ha dei problemi, è comunque super forte. No, Capito? lui è super forte se riesce ad accettare se stesso. È Sì, diverso il però un punto. bambino che lo guarda non capisce quello, capisce solo che lui è super forte, non gliene frega un cazzo di. Non dice Dubito allora. che il bambino veda tutto questo, però in Lo so, generale. ma se tu devi fare il messaggio, devi mandare un messaggio, il messaggio secondo me lo devi mandare bene, devi mandare un messaggio che abbia un senso. In questo modo il mio primo coso è, vabbè, fanculo, lei non aveva i poteri, alla fine l'ha resa speciale comunque, quindi gli è andato un potere, quindi sti cazzi. Secondo me ci stai guardando troppo. C'è cioè, un bambino non gliene frega un cazzo, non è che si mette a pensare. Al bambino gli rimane l'impressione del finale, e il finale è un lieto fine standard dove si stabilisce lo status quo. Secondo me è È un peccato. un peccato, ma per me tutto il film è un peccato. Cioè, nel senso, non è solamente il finale essere un'occasione sprecata, secondo me, perché potevano andare davvero più a fondo, più, diciamo, a sfruttare le cose interessanti di questo film, che secondo me non sono, non sono solamente i miei poteri, io ho una personalità interna che deve venire fuori, let it go. No, cioè, la cosa interessante per me era Casita. Cioè, Casita è la parte davvero originale, secondo me. Cioè, Casita c'ha è qualcosa di più, è qualcosa che è tipico, è unico di questo film. La cosa che mi piaceva di più di questo film è come si muove Casita, come si esprime Casita, come si entra con i personaggi. Come cambia, come può cambiare, come è tipo un TARDIS, c'è cioè la citazione a Doctor Who quando entrano dentro, è più grande all'interno. No, cioè, per me non è il problema, non è lì, anzi, il finale è coerente con il resto del film, cioè dice ok, abbiamo trovato noi stessi, abbiamo ristabilito insomma l'equilibrio della famiglia. Casita di nuovo in piedi, perché non avere anche poteri visto che non ci servono più? Capito? Cioè, È quello il fatto, secondo me, nel senso che secondo me invece il film è bello, tranne su questa cosa qua, nel senso che a quel punto fai un twist, metti qualcosa di nuovo, metti che è rimasta la casa e basta, e tutto il resto non esiste. È rimasta la non famiglia, lo so. è rimasta la comunità, Non lo so, che per me ci aspetta sta. quello che è. Cioè, alla fine è troppo, non so come dire, è troppo personaggio centrica, cioè troppo famiglio centrica, non dai spazio di immedesimazione, non ti puoi vedere in uno dei personaggi. Cioè, No, questo è vero, è una cosa che un po' manca. loro sono Non lo so. speciali e sti cazzi, tutto il resto del villaggio è una merda e deve dire sì, i Madrigal sono i più fighi, lo sappiamo, li aiutiamo a No, costruire la esatto, casa. sì, Alla questo è un fine, problema. se invece avessero detto ora No, siamo quella tutti aspetta, uguali. e quel villaggio l'ha aiutato perché finora loro avevano aiutato il villaggio. Ok, ma visto che E quindi si è. anche se non siete più importanti, noi vi aiutiamo Ma perché vi dopo vogliamo ma bene. loro poi sono tornati Sì, ma non è importanti. che lo sapessero prima. Ok, no, io ho capito, ma perché bastava così poco? Bastava che Il semplicemente. tuo cinismo! Siamo tutti speciali per come siamo. Appunto, ma non per i poteri che abbiamo, perché Ma il nessuno di nostro noi ha i potere è poteri. essere noi stessi. Sì, Salla, è come, pensa al tuo film preferito, Spider-Man Homecoming. C'è una scena dove Iron Man dice a Spider-Man: se non sei nessuno senza la tuta, non te la metti, cioè, non meriti di indossarla. Però alla Qualcosa del fine gliela dà. genere. Però alla fine gli va lo stesso, perché sti cazzi, cioè, alla fine dimostra che non può, cioè, che non ha bisogno della tuta. Si quasi ammazza, si suicida perché non aveva la tuta. E Iron Man sente in colpa e dice: cazzo, stai quasi per morire, eccoti la tuta. E quindi la prende lo stesso, capito? Sì, mi sembra Questo proprio, è il ecco. trama di Spider-Man Homecoming che ho appena spoilerato a tutti quelli che non l'hanno visto. Vabbè, ma Homecoming è quello primo, no? Sì, è Sì, vecchissimo. c'era effettivamente c'era ancora Iron Man. se non l'avete visto, vabbè, sti cazzi. C'era ancora Iron Man. Adesso invece non ha più il contratto. Vabbè, Endgame non c'era neanche il Covid, figuriamoci. Angela ha fatto lo spoiler peggiore apposta, io sono Fabio. Comunque sì, per me, allora, pur non avendo aspettative riguardando il film, potevano fare qualcosa di più. Non mi ha deluso, però, ripeto, cioè, non lo so. Allora, adesso dirò una cosa estremamente impopolare, soprattutto per Jacopo. A me è piaciuto più di Luca, dove a parte la roba, in Italia, secondo me non aveva No, nient'altro. ci può stare, Luca è capisco. molto simile, però. Ha un concetto simile, ma secondo o perché riguardavamo tanto le cose riferimenti all'Italia, quindi ho perso un po' il senso del resto. Però questo l'ho trovato molto più gradevole, e Ma è che anche come questo è. messaggio l'ho trovato espresso meglio. Poi il concetto era molto molto simile, siamo No. molto. Allora, io sono rimasto deluso dalle canzoni di questo perché mi sembravano fuori posto, la maggior parte non dicevano nulla, nulla. E da Lin-Manuel Miranda mi aspettavo di più. Luca ha il vantaggio che ha meno canzoni, anzi, io non me ne ricordo mancuna. No, sto pensando anch'io, non ne ha, mi pare. E Coco ha il vantaggio ancora più grande che le ha, ma hanno senso, sono nella storia e sono stupende. La cosa di Luca che ha più di questo, secondo me, è che il messaggio di Luca è molto più viscerale, almeno per me. Cioè, riguardandola adesso, ho visto un po' di video che ne parlano, c'è tantissimo sottotesto che io avevo negato quando abbiamo fatto la puntata del Salotto, che in realtà è importante. Cioè, la cosa che, non so se vi ricordate, quando abbiamo visto Luca, ho detto: la comunità, diciamo, su internet dice che questo è un film sui gay, io non ce l'ho vista sta cosa. Guardando tipo due o tre video ho scoperto che in realtà il film non è sui gay ma è sui bisessuali. Cioè, è leggermente. No, cioè. Spostiamo un po' il Come? focus. Spostiamo un po' il focus. Esatto, è Ma leggermente. infatti è diverso, cioè è molto diverso come anche se cioè, ha molti punti in comune come tema, perché comunque accettare noi stessi. È un tema molto comune nelle Non è cose. solo Sì, accettare ma noi lui è un cazzo di stessi. mostro. Cioè, lei è la diversa in un modo o Sì, nell'altro. Loro sono i ok, però diversi. loro sono E comunque i madrigali di cioè, non vorrei dire, è sti da Lilo e Stitch che fanno sta roba. Cioè, cazzi. Lilo era la musica diversa. Lei non è che è diversa e quindi le persone la trattano come un mostro. Non è che le persone, anche persone tra virgolette alleate, cioè Alberto è un mostro come lui, ma comunque lo tratta come un mostro. Cioè, nel momento in cui lui lo tradisce, o. Qua stiamo sperando pure Luca. Però, Ormai, dai. cioè, anche Spoiler Alberto lo free. tratta di merda e sta cercando di costringerlo a scegliere. Il bello di Luca è che c'è questa scena cioè di qualcuno da entrambi i lati che cerca di costringere Luca a stare da una parte o dall'altra della stracciata, diciamo. E quindi c'è un messaggio importante Sui bisexual. per i bisessuali, appunto, di non doversi sacrificare metà della propria identità per stare solamente sul lato o sull'altro della staccionata. In questo film io non ce l'ho vista questa, diciamo, questo conflitto interno No, nella. ma non è la stessa cosa questo film. Ci assomiglia a dei punti in comune, ma non parla della stessa cosa. Qui è più sul perfezionismo e su quanto, Quanto appunto, c'è sulle sopra la aspettative. superficie. Esatto, quanto le aspettative in realtà fanno del male a te che devi imparare invece a accettare i tuoi difetti. Invece di là è proprio, lui è un mostro, quindi è Sì, brutto e cattivo. sarebbe stato bello una scelta, cioè se ci fosse stata una scelta invece di una profezia, forse sarebbe stato meglio. Cioè, se lei avesse dovuto scegliere tra avere un potere e distruggere la casa o non distruggere la casa, cioè dare più scelta a lei l'avrebbe resa più chiaramente un protagonista invece di rendere tutti protagonisti, e l'avrebbe resa più, cioè, gli avrebbe No. dato più un conflitto, non lo so, ho No, detto una invece a dirlo, cazzata magari. la roba del, cioè il fatto che noi non avessimo scelta, ma a un certo punto decidi di buttare fuori tutto e la casa man mano va in pezzi a significare proprio la famiglia che un po' alla volta si rompe. Io invece l'ho trovato molto bello. Che alla Sì, fine, vabbè. cioè non era focalizzato sul fatto di dover scegliere, dover fare una scelta, ma sul fatto di dover affrontare un proprio conflitto. Che poi in realtà riguarda, cioè un conflitto relativamente comune che riguardava in quel caso tutta la famiglia. Sì, è vero, cioè, ovviamente poi la conseguenza di questo non avere la scelta porta a quello, ma ripeto, questo era solo un esempio, non lo so, non lo so. Non so davvero. Vabbè, guardate Incanto con i vostri figli. Sì, no, vabbè, No, è è un un bel film cartone. per bambini fatto bene. Sì, certo. È È un bel una roba ca piacevole che vai a cartone di. vedere il sabato pomeriggio con i bambinetti. Devi solo rubare un bambinetto per andare al cinema a vederlo. Il podcast si Come? dissocia da questa cosa. Ho messo un po' a capire. Sarà che ho appena visto Karate Kid l'originale, ma è molto meglio. Anche le canzoni di Di Karate Kid. Karate Kid, sì. Quindi aveva ragione Barney Stinson. Beh, Come? quello te lo insegna la prima stagione di Cobra Aveva Kai. ragione Barney Stinson. Perché che diceva Barney Stinson? Che l'antagonista Era è LaRusso. Daniel LaRusso. Ah no, certo, sì. Guarda Cobra Kai. Per favore, Salla. No, c'è un montaggio in Karate Kid di lui che batte tutti quanti e c'è la canzone You're the best. Ara! Cioè, che vuoi di più come musical? Perfetto. Va Tra bene, l'altro dai. finisce subito quel film. Non so se avete mai visto tutto quanto Karate Kid fino alla fine. Non mi ricordo. Cioè, Probabilmente sì. il finale dura tipo 20 secondi. Cioè, tipo, vabbè, scusate. No, non ti preoccupare, il prossimo episodio di questo podcast parleremo di film in cui il finale non dura 20 secondi. Perfetto. Detto questo, noi vi ringraziamo dell'ascolto e grazie di aver partecipato al podcast e ci vediamo Una settimana minaccia. prossima con un film che mi hanno obbligato a vedere. Ciao, a settimana prossima. Esagerato. Ciao. Ciao.